Friuli nel mondo, 66esima trasmissione dedicata agli emigrati. Primevere benedete. Tutte le campane del Friuli, dalla Carnia al mare, annunziano la Pasqua e con la resurrezione i cuori salutano la primavera che ritorna. L'armonioso concerto valica i monti e gli oceani per raggiungere idealmente tutti voi, cari lontani, con la sua voce che è il saluto e l'augurio festoso della terra friulana. Vogliamo pertanto farvi oggi riascoltare i suoni e i canti con i quali l'anima friulana esalta la primavera e con essa le notti tiepide, le rondini, le stelle. Amore e primavera sono infatti motivi immortali dell'anima semplice del popolo. Questa graziosa villotta, dal titolo Primevere benedete, non esprime forse questi immortali motivi? E con la primavera, attesa come una benedizione, eccovi ora una villotta composta da Pietro Zorutti e musicata da Arturo Zardini, che è ispirata ad un senso di serenità e di pace. La tiepida notte di aprile e le stelle, infatti, suscitano mille dolci pensieri. La notte imbrune, chiaris che stelis, chiare che lune, ses ben vienis, che firmament dut risplendent. L'aer quiet, dome ogni tant un zefiret va svintulant roses e flors di mil color. Ie primevere innamorade svole lizere spandint rosade cu la zumiele palata viele. Cidin, cidin, ven iul roiuz, ali vicin son iuceluz indurmidiz in tailorni. Come suscitatrice d'amorosi pensieri è questo componimento musicale di Tita Marzottini, che nel veder brillare una stella in cielo, nel veder quella, la sola, la vera, la più bella stella dell'amore. In ciel e ie una stele che brille di splendor, di tutti la più biele, la stele d'amor. Cosponte la matine, la stele va lontane, la stella manca.